Anzi, guarda, facciamo così direttamente. Premiamo REC e ci lanciamo direttamente in questa puntata numero 14 di To Do List, che mette la freccia e sorpassa tutti. Ciao, ne proprio. Un programma che è più difficile da debellare dei pidocchi. Quindi effettivamente ad ora siamo alla puntata 14, nessuno ci ha ancora cacciato dalla radio, cosa che invece faremo noi a breve quando arriverà Norberto, che cacceremo lui, poverino. Però senza voler perdere ulteriore tempo, visto che come al solito la puntata è bella densa e come al solito sono in ritardo e come al solito è il caso di non sforare troppo in là, perché come ben sapete il lunedì è il turno dell'assemblea di ZAM e quindi noi non possiamo che concludere entro una certa per poi fuggire al piano di sotto e o online per come dire proseguire con il duro lavoro dell'autogestione, che è un mestiere duro ma qualcuno deve pur fare. E quindi di tutta risposta noi partiamo subito con la nostra sigla, che dovrebbe partire in real time, ed eccoci qui. Come al solito interrompiamo il buon Craig, che ci propone, ripropone e ripropone per l'ennesima volta la sua Seven Days. E quindi siamo, insomma, non l'ho ancora detto perché non c'è qua Sveva e quindi sono un po' in dramma per quanto riguarda il segnale orario, ma ci provo anche se non ho la stessa classe. Oggi è il 15 di febbraio e sono le ore 18:50 o 18:51, il computer segna due orari diversi, sono sempre un po' in sbattimento con questa cosa, ma comunque siamo in diretta, diciamo, questa è la verità. E niente, siamo pronti per iniziare la puntata, per l'appunto 14, puntata che ci porta, diciamo, nella settimana che va fra il 15 e il 21 di febbraio di questo 2021, questa zona gialla in attesa di essere confermato o meno. E gli eventi sono numerosissimi, quindi noi come al solito cercheremo di fare una galoppata nel corso della settimana. Facciamo anche una galoppata come al solito dal punto di vista musicale, che è un po' la chicca di questo programma. Come al solito, come dire, le canzoni sono scelte in base a coloro che hanno compiuto o che avrebbero compiuto gli anni nel corso di questa settimana. Devo dire che in questo caso la puntata, come avevo già anticipato a qualcuno, è un back in the days, nell'adolescenza più o meno di tutti quelli della mia generazione, quindi un'adolescenza fricchettona, e si è abbastanza costruita da sola, devo dire. Però non anticipo di più perché vi lasciamo nell'incertezza e nella suspense che immagino che voi viviate con estremo sbattimento. Per iniziare subito, in realtà oggi faremo una cosa un po' diversa dal solito, perché noi di solito iniziamo con gli eventi di oggi, ma per svariati motivi Abbiamo deciso oggi invece di non presentarvi, diciamo, gli eventi che avrebbero avuto luogo in queste ore o nelle prossime 3 o 4, con l'unica, diciamo, l'unica eccezione del nostro solito, oramai è quasi scontato dirlo, ma la solita ottima proposta di Prospero Editore con i suoi percorsi di lettura. Lo dico agli amanti degli sport e lo dico anche a Cigo, così in riferimenti vari ed eventuali. Il tema di quest'oggi, per chi volesse, inizia proprio fra 5 minuti e lo troverete poi comunque a disposizione sulla pagina di Prospero Editore, è narrazioni sportive, corpi, contesti e racconti di sport in letteratura. Quindi con l'autore Daniele Comberiati, per chi volesse andatevelo a recuperare, perché l'idea è quella di attraversare alcuni aspetti e momenti fondamentali della storia occidentale del XX e XXI secolo grazie ad alcuni testi che parlano di sport, e quindi poi intrecciare, come dire, le tematiche di colonialismo, razzismo, migrazioni e boom economico. Quindi per chiunque volesse, appunto, percorsi di lettura con Daniele Comberiati e Prospero Editore sono le due coordinate di massima. Ma veniamo per l'appunto adesso a degli eventi che non prendono, diciamo, non avranno luogo quest'oggi, ma nei giorni a seguire, e partiamo subito con, diciamo, una prima session di presentazione di libri. Ce ne sono diversi. Il primo che presentiamo è la presentazione del libro La luna che muore le maree, l'assalto al patriarcato. Ecco, questo è un libro edito da pochissimo, in realtà, dall'Agenzia X, che parte da alcuni punti nevralgici delle mobilitazioni, quindi Argentina, Messico, Stati Uniti, Uruguay, Brasile, Cile e anche appunto la nostra penisola, quindi l'Italia, e all'interno di questo libro, appunto, le autrici ci accompagnano nell'esplorazione di una geografia di insubordinazione e dissenso che prende avvio dalle lotte e dalle compagne latinoamericane di Ni Una Menos, fino a coinvolgere altri corpi ed altri territori e farsi pratica collettiva e intelligenza condivisa attraverso lo strumento dello sciopero. Ecco, il testo è sicuramente interessante, la presentazione altrettanto, sarà sicuramente stimolante sotto una serie di punti di vista. Ad introdurre e moderare sono le organizzatrici di questo incontro, che sono le compagne di Resisto, R-Esisto, collettivo femminista di Piacenza, e Isterica, che invece è il collettivo femminista di Imola. Alla presenza, per l'appunto, della curatrice e ricercatrice Milin Bonomi e di due compagne di Non Una Meno di Roma. Tutto questo succede mercoledì 17 febbraio alle ore 18.45 sulle pagine, per l'appunto, degli organizzatori. Quindi R-Esisto, quindi Resisto, collettivo femminista Piacenza e Isterica. La seconda presentazione che andiamo a riproporre, in realtà le andiamo a riproporre effettivamente, perché l'avevamo già presentata settimana scorsa, proposta in quel caso, nel caso di settimana scorsa, da Cascina Torchiera, e questa volta invece a proporne la presentazione sono i compagni di Off Topic. Il libro è nuovamente quello intitolato Gli obsoleti. E l'idea è quella di chiedersi, appunto, cosa succede realmente dopo che abbiamo inviato una segnalazione a Facebook, a Twitter, o in generale quali sono, diciamo, chi sono e quali sono i compiti dei moderatori della rete, che appunto decidono cosa censurare o non censurare, tema abbastanza caldo, tra l'altro, ultimamente, sia in senso positivo che in senso decisamente negativo. Citiamo per l'appunto Rete Jin, che è stata recentemente censurata, e buona parte delle pagine di Facebook, tra l'altro, hanno subito diverse fasi d'arresto, in particolare per quanto riguarda l'appoggio alla questione del Rojava, quindi la questione curda. Comunque, diciamo, senza uscire troppo dal seminato, l'idea di parlare un po' della moderazione, di quello che appunto succede in termini di sicurezza per quanto riguarda i social, si trova in 10 anni di inchieste e testimonianze riassunte per la prima volta in questo libro che si chiama appunto Gli Obsoleti. Le indicazioni in questo caso sono giovedì 18 febbraio, quindi potete trovare questo evento all'evento Gli Obsoleti, anzi 18.2 Gli Obsoleti, incontro con l'autore, che avrà appunto luogo giovedì 18 febbraio alle ore 19 sulla pagina Facebook di Off Topic e sul suo canale live, quindi www.offtopiclub.org/live. Il terzo libro che presentiamo, stiamo facendo un po' un'infornata e poi passiamo un po' a della musica, è Gli Algoritmi della Politica, quindi siamo nuovamente, diciamo, rispetto a web e come dire, meccanismi algoritmici di controllo. In questo caso la presentazione ci dice per l'appunto che quando navighiamo o parliamo allo smartphone o effettuiamo varie operazioni online, lasciamo delle tracce, questa non è una novità evidentemente, della nostra attività a disposizione delle imprese digitali che controllano il web. Questo però, che noi conosciamo normalmente come, diciamo, strategia di marketing commerciale, in realtà è solo una parte di quello che succede. L'algoritmo infatti consente di elaborare in base al nostro comportamento online una previsione delle nostre condotte future che attiva anche in ambito politico forme di induzione e attrazione verso posizioni che altrimenti non ci verrebbero mai in mente. La sfera pubblica si presta così a condizionamenti propagandistici che il cittadino non è ancora preparato ad analizzare criticamente e che incidono sulla libertà stessa, sia come immaginario singolare e sociale, sia come pratica individuale e collettiva. Ecco, la presentazione di questo libro avviene alla presenza dell'autore Salvo Vaccaro e la proposta arriva da Il Venerdì Libertario e da Alternativa Libertaria FIDCA Fano Pesaro. La proposta è per il venerdì 19, quindi questo venerdì, alle ore 18.30 sulle pagine appunto che abbiamo appena citato degli organizzatori. Colgo l'occasione anche per dire che, come al solito succede, alla fine, diciamo, di questa trasmissione, quindi più o meno intorno alle 9 di sera, sulla pagina di Radio ZM, che è il canale web radio che ci ospita e che abbiamo, insomma, l'onore di chiamare famiglia, troverete appunto un post con tutti i riferimenti sia alle pagine da andare a recuperare che agli eventi stessi, compreso questi ovviamente. Quindi se vi siete persi qualcosina, sappiate che immediatamente dopo decina di minuti dopo la fine della trasmissione trovate tutto in ordine di apparizione e quindi facilmente reperibile. L'ultimo libro che di cui, diciamo, presentiamo la presentazione con questo simpatico gioco di parole è Il Sogno e la Ragione, da Harlem a Black Lives Matter, ed è un libro ed è una presentazione che ci propone Ampiniguarda e il Centro di Documentazione Antifascista, oltre che il Teatro della Cooperativa, insomma l'ambiente colloniguardese, perché trattasi di un libro di Daniele Baiacchessi, che oramai con Niguarda ha una lunghissima, diciamo a decenni di collaborazione. L'idea è per l'appunto quella di presentare un libro sulle elezioni americane, ma che in una qualche maniera andasse a ragionare sull'incidenza e sul ruolo degli afroamericani e delle minoranze sia nella vittoria di Joe Biden che durante la presidenza di Donald Trump. In realtà appunto il testo, per come ci viene presentato, si propone un po' di andare a sbirciare negli oltre 400 anni di storia americana quindi dalla, anzi statunitense, mi permetto di dire io, dallo sbarco dei primi schiavi in Virginia fino alla nascita del Ku Klux Klan, fino alle lotte per l'emancipazione dei soliti noti e meno noti, quali Martin Luther King, Malcolm X, il movimento delle Black Panthers, Angela Davis, fino ad arrivare appunto a Black Lives Matter e alle varie battaglie per i diritti civili. Per chiunque fosse interessato, la giornata è quella del sabato 20, che come vedremo in realtà è una giornata un po' fortunata e un po' sfortunata, diciamo. Segnatevi in agenda una super X, perché ci sono nella giornata di sabato 20 febbraio 4.000 milioni di eventi, però insomma, come spesso succede, in questo caso potreste anche andare a recuperarvi la presentazione nei giorni a seguire. Direi che ho parlato abbastanza, prima di annoiarvi ulteriormente passiamo alla musica e iniziamo con un mostro sacro senza nessun dubbio, che appunto nasce il 19 febbraio del 51. Stiamo parlando di Horace Andy, anche noto come Sleepy, cantante giamaicano, sicuramente uno dei più, diciamo, fondamentali cantanti della scena roots reggae. Il pezzo che ci ascoltiamo, che si chiama Skylarking, è peraltro quello che probabilmente lo consacra, diciamo, al grande pubblico, e questo succede nel 72. Tenete conto che questo è un album del 69, quindi insomma, di un giovanissimo Horace Andy che si piazza sulla scena internazionale reggae e che da lì non si scrolla assolutamente più, giustamente. E quindi diciamo a seguire mettiamo poi un altro pezzo, e questo veramente per chiunque sia della mia età è abbastanza un check obbligatorio sulla lista, ma per il momento, appunto, senza indugiare oltre mettiamo Skylarking di Horace Andy. Skylarking, that's what you do today. The skylarking, the skylarking, before they stand up firm on their feet. Give a little work, a little work, and earn their bread all as fighting, sir, begging you at dancing, sir, can it help? No, can it help? So if you keep on doing what you all are doing, you will end up, up, up in chains. Sir, begging you at dancing, sir, can it help? No, can it help? So if you'll keep on doing what you all are doing, you will end up, up, up in chains. So if you'll keep on doing what you all are doing, you will end up, up, up in chains. The skylarking, that's what you do today. The skylarking, E questo era Skyliking, e sentiamo, diciamo, questo farsetto che accompagna poi un po' tutta la carriera di Ora Sandy, ma rimanendo, diciamo, sul levare, quindi dal reggae passiamo ad uno dei generi che, diciamo, vi consegue più direttamente. Stiamo parlando dello ska, e lo facciamo parlando di... adesso non voglio esagerare, però sicuramente una dei gruppi che in assoluto ha fatto più da colonna sonora dell'adolescenza dei giovani, degli allora giovani, dei tuttora giovani della mia età, perché è il compleanno, e in particolare il 20 febbraio compierà i suoi 50 anni, questo sempre perché siamo dei ragazzini, Pool, nome che potrebbe non dire tantissimo, ma in realtà che tutti e tutte potrebbero ricordare come cantante e chitarrista spagnolo diventato famoso come frontman degli Scapè. E in particolare dagli Scapè arriva questa hit. Ho scelto la traccia più ACAB, così, perché mi sembrava bello, perché mi sembrava sempre attuale, come dire. Il pezzo arriva da El Vals del Obrero, che è diciamo il valzer dell'operaio in spagnolo, album degli Scapè datato, lo sto dicendo, 1996, quindi ormai sono passati 25 anni. Sto facendo bene i conti, 25 anni. Questo è Romero il Madero, e insomma non aggiungo nient'altro. Cerebro de acero. ed era Romero il Madero, questa simpatica canzoncella dedicata a Romero, il Madero vuol dire quello che uccide, che è evidentemente un poliziotto che si vanta con i suoi amici degli abusi di potere che compie nei confronti di tutte le varie minoranze schifate dalla eteronormalità. E quindi niente, se lo siamo sentiti, spero che che alcuni di voi fossero tornati, vestiti un po' di lana cotta e righe per gli ultimi tre minuti appena passati. E passiamo a questo punto al secondo focus della puntata, che sono dei libri nello specifico, ma anche delle attività varie pensate appositamente per i bambini. Questa settimana ne abbiamo trovate un paio, in realtà per buona parte si tratta di eventi ciclici, e quindi tenete comunque d'occhio le coordinate che vi daremo alla fine. La prima proposta è quella di storie incartate, letture animate con il Kamashibai. Si tratta di una proposta che arriva dal Museo delle Scienze di Trento, se non erro, sì, anzi, senza, se non erro, ed è un ciclo di incontri dedicato al pubblico del Maxio, appuntamenti online dedicati ai bambini a partire dai 3 anni e alle loro famiglie. Il laboratorio Storie incartate, non incantate, bensì incartate, da qua il simpatico gioco di parole, propone una lettura animata con la tecnica giapponese del Kamishibai, un teatrino tradizionale. La lettura è seguita da un momento di approfondimento scientifico a cura degli esperti, appunto, del MUSE, che è il Museo delle Scienze di Trento, che tra l'altro ha un'ottima offerta, quindi insomma andatevela a recuperare, con la possibilità per i bambini di fare domande. L'incontro di martedì, di questo martedì, e ripeto, è uno dei tanti, e quindi andate a vedere che cosa trovate andando a sbirciare un po' sulla pagina del MUSE, è la Vispa Teresa di Paolo Racca, Romina Panero e Simona Gambaro, edito da Arte e Bambini. Per seguire questo evento con i vostri cuccioli d'uomo dovete assolutamente iscrivervi, per quanto sia un evento gratuito, perché è svolto sulla piattaforma Teams. Questo vuol dire che voi dovete andare sulla pagina del Museo delle Scienze o sull'evento Storie incartate, letture animate con il Kamishibai e seguire le istruzioni per iscriversi. Detto questo, martedì 16 febbraio alle ore 16:30. Sempre libretti e sempre bimbi, anche in questo caso dai 3 ai 6 anni è la fascia consigliata, è un appuntamento che ai noi abbiamo perso, nel senso che è stato tutti venerdì da gennaio al 26 febbraio, quindi ormai avete solo le ultime due puntate da seguire, ma è organizzato dalla Biblioteca Chiesa Rossa, quindi dai nostri vicini di casa, tutti i venerdì dalle 17 alle 17:40. Anche in questo caso questi libri a merenda si svolgono per l'appunto sulla piattaforma Teams, e quindi anche in questo caso è necessario iscriversi, per quanto gratuitamente, e lo potete fare mandando una mail a c.bibliocriesarossa@comune.milano.it. Potete trovare altrettante informazioni sulla pagina di Amici della Biblioteca Chiesa Rossa su Facebook. Ultima proposta per i più piccini, visto che io non me ne sono accorta in questo grigiume di zone rosse, gialle e verdi, che effettivamente ci riempiono di colori, ma questo non è sufficiente. A quanto pare fuori di qui sta per iniziare la settimana di carnevale, e a Venezia, dove il carnevale è una gran bella tradizione di lunghissimo corso, stanno cercando anche quest'anno, in cui non ci si riesce a assemblare tutti quanti, di organizzare tutta una serie di incontri soprattutto per i bimbi, ed è il caso di questo Stanze Virtuali Kids Carnival Laboratorio Ombre Magiche, che è il titolo dell'evento. L'idea è quella di utilizzare per l'appunto delle bellissime ombre, e quindi l'idea è quella di un artista del teatro di figura che conduce un laboratorio del Carnevale di Venezia per avvicinare i bambini al mondo del teatro delle ombre. E durante il percorso verrà proposto un personaggio da disegnare, ritagliare ed animare. In questo caso, appunto, gli oggetti di casa vostra, saranno poi un po' i protagonisti delle ombre magiche di questo evento. In questo caso rimaniamo sempre su Teams, quindi sempre su Google Teams. La proposta è per martedì 16 dalle 16. Ogni workshop ha una durata di 45 minuti circa, e anche in questo caso non è l'unico laboratorio, quindi andatevi a rintracciare le altre proposte, anche se anche in questo caso siamo abbastanza vicini alla fine. Per l'appunto, anche in questo caso, per gli eventi, che pur sono gratuiti, la partecipazione è subordinata a una prenotazione online, in questo caso addirittura su una pagina di Eventbrite. Le informazioni comunque le trovate sull'evento che vi ho appena citato e sulla pagina di Carnevale di Venezia Official Page. A questo punto ci interrompiamo un attimino ancora per dare spazio alla musica di nuovo, e lo facciamo con un altro, come dire, protagonista della scena musicale, questa volta un protagonista della scena musicale italiana nello specifico. Stiamo parlando di un cantante nato il 18 febbraio, stiamo parlando di Augusto D'Aolio, nato il 18 febbraio del 47, cofondatore del gruppo musicale Nomadi, che sono, direi, abbastanza noto, il quale, ai noi, per la mia generazione, è incrociato solo di sfuggita, perché D'Aolio morirà il 7 di ottobre del 92 a 45 anni per un cancro ai polmoni. La cosa positiva è che la sua morte giovanissima arriva dopo 25 anni di carriera e ben 19 album. Il brano che abbiamo scelto, in realtà ovviamente sono tantissimi quelli che potevamo scegliere, nel caso specifico abbiamo scelto Gli Aironi Neri, che arriva dal penultimo album di D'Aolio in vita, quindi nel 91, e l'album si chiama Gente Come Noi, e quindi noi vi facciamo ascoltare Gli Aironi Neri. Gli aironi neri attraversano il cielo, l'inverno bianco scende dal nord, l'estate gialla si nascosta nel mare, il vento freddo correndo sui prati, ma io e te, amica mia, con le mani nelle tasche, camminiamo sulla strada, e l'estate ancora dentro, con un sogno di mare, e di corpi caldi al sole, e di voci nella notte, notte chiara, tu che conosci il mare, portami via con te, dove la gente veste solo dei suoi colori, tu che conosci il mare, e il vento suo padrone riempì quella vela e rompì quelle onde. la nebbia grigia ha riempito le strade, lampioni persi sulla riva del fiume, l'estate gialla c'è rimasta negli occhi, la pioggia bianca copre le strade d'argento, ma io e te, amica mia, con le mani nelle tasche, camminiamo sulla strada e l'estate ancora dentro, con un sogno di mare e di corpi caldi al sole e di voci nella notte, notte chiara. Tu che conosci il mare, portami via con te, dove la notte è chiara e il cielo è più vicino. Tu che conosci il mare e le stelle come guida, prendi quel timone e insegnami la via. E ci inseriamo sulla splendida Gli Aironi Neri per proseguire, diciamo, con tutta una serie di altri incontri e formazioni che per una volta invece non hanno a che vedere, diciamo, strettamente con dei libri. Anche in questo caso le proposte sono moltissime, quindi cerchiamo di andare un po' svelti per guardarle, diciamo, tutte. Una di queste, la prima, diciamo, che ci teniamo a portarvi qui, e con ci teniamo uso un plurale che in realtà è, come dire, è un plurale sia di fatto che diciamo che speriamo, ecco, no, adesso non mi viene in mente la parola, però auspicato, ecco, è un plurale sia effettivo che auspicato, perché come ricordiamo sempre in questi casi, anche oggi che è il 15 febbraio, era da un po' che non lo dicevo, sono le 19:26, oggi è il 15 febbraio, in questo appunto quello che ci tenevamo come al solito a fare presente è che la redazione di questo programma è open source, è open directed. Insomma, fondamentalmente, al di là diciamo di questi termini da me inventati in questo momento, l'idea è che ognuno di voi, così come ognuno di voi può fruire da questo infinito elenco di eventi, ognuno di noi è libero e anzi è più che invitato a farci presente alcuni degli eventi che voi ritenete più significativi della settimana. E quindi anche nella giornata di oggi, per esempio, ringraziamo tutti e tutte, anzi principalmente tutte coloro che hanno sottoposto tutta una serie di elementi. Nello specifico ringrazio Eleonora, Cecilia e Michela, oltre che Buon Gibro, per, diciamo, tutto ciò che ci è stato proposto, e vi invitiamo tutti e tutti a fare altrettanto. Ora, smettendo di parlottare delle mie solite vaccate, dico quelle degli altri che sono decisamente meno stupide e decisamente più, come dire, solleticanti. Una di queste è una proposta della UAV, quindi dell'Università di Venezia, è l'ultimo incontro di un ciclo che ci siamo persi e ai noi, nonostante sia in streaming sul canale YouTube, non rimane online, quindi è una one shot, o la vedete il venerdì 18 dalle 15 alle 17 o mi sa che ve la perdete. Come dicevo, la proposta che vi facciamo è quella di La città del futuro, il museo nella natura contemporanea. È un ultimo incontro appunto di un ciclo organizzato dalla UAV di Venezia, curata dal professore Emanuele Coccia, e l'idea è quella di diciamo l'abstract di questo ciclo di incontri è quello che vi leggo testé. La riflessione politica ha sempre separato la città dalla foresta, la civiltà dalla natura. Davanti alla crisi climatica contemporanea è quanto mai urgente ripensare l'idea stessa di città e non costruirla più in opposizione alla vegetazione e alla fauna che esiste fuori di essa. I seminari vorrebbero immaginare questa città nuova pensandola come l'equivalente per la natura di quello che i musei di arte contemporanea hanno fatto per l'arte. La città futura non dovrebbe solo permettere di pensare e far vivere l'uomo come parte della natura, ma pensare anche alla natura come realtà profondamente storica capace di contemporaneità. Ecco, credo che, come dire, la proposta sia intrigante, a maggior ragione diciamo in questo ultimo periodo in cui la questione ambientale è decisamente pregnante. Per chi volesse, per l'appunto, venerdì 18 dalle ore 15 alle ore 17 sarà possibile seguire il seminario in diretta streaming dal canale YouTube della UAV, ma per l'appunto non rimarrà online, quindi affrettatevi. La seconda proposta, non a caso, e anche la terza in realtà, come dire, arriva diciamo nell'ambito green, ed è una proposta che arriva da San Donato e in realtà da Filippo De Simone, che è il gestore diciamo della pagina L'Orto a Milano, che è una pagina molto interessante, quindi per chiunque volesse vi invitiamo a mettere un like. La proposta è quella di Miglioriamoci col verde, questo è il titolo dell'iniziativa, iniziativa che avrebbe dovuto, che è stata diciamo che è risultata vincitrice dalla terza edizione dal bilancio partecipativo di San Donato, e che intendeva diciamo proporre una serie di incontri che andranno invece diciamo verranno presentati esclusivamente online, considerata la situazione. Il primo appuntamento dell'anno è quello che vi proponiamo, è quello di venerdì 19 alle ore 18:15, e sarà la lezione L'intelligenza del mondo vegetale, incontro durante il quale Filippo De Simone spiegherà come le piante risolvono autonomamente i propri problemi, per lo più spesso nonostante questi problemi siano l'essere umano. Questo l'ho aggiunto io, in realtà non c'era scritto. Gli incontri, e uso il plurale perché in realtà per l'appunto questo è il primo incontro di una serie di 4-5 se non erro, sono gratuiti e aperti a tutti fino al raggiungimento di 20 persone. È appunto una videoconferenza su Google Meet, e quindi c'è bisogno di un'iscrizione. Anche in questo caso potete farlo cercando informazioni su L'Orto a Milano, e comunque per chiunque volesse, per l'appunto, l'appuntamento è per venerdì 19 alle ore 18:15. Proseguiamo con un altro grande rientro, perché è il secondo incontro di un ciclo che avevamo già presentato in occasione del primo, insomma, dell'inizio, e cioè gli incontri di ecofemminismo e il mondo, proposto da Lega Ambiente Bergamo per approfondire le connessioni esistenti fra ecologie e femminismo. Quindi un percorso che riflette su ciò che accomuna lo sfruttamento dell'ambiente e il dominio del sistema patriarcale capitalista. L'incontro in questo caso, anzi forse questo è il terzo addirittura, l'incontro in questo caso è dedicato a ecofemminismo in pagina, nel web e nelle associazioni, alla presenza di Jamie Heard, dottoranda presso l'Università di Parigi, e Pat Carra, che per chi non lo sapesse è una fumettista e umorista piuttosto nota. L'appuntamento in questo caso è sabato 20 febbraio, anche questo sabato, come vedremo, è una ricorrenza abbastanza presente nella puntata di oggi, dalle ore 15 sulla pagina di Lega Ambiente Milano. Possiamo sperare che in questo caso invece sia il video sia poi recuperabile anche in successiva. Così come altrettanto sabato 20 e sempre dalle ore 15 ai noi è una proposta che ci fa invece ADL Cobas nelle sue diramazioni regionali Lombarda, Emiliano Romagnola e diciamo Veneta per quanto riguarda la Bassa Padovana. Il titolo del confronto e del dibattito che propongono da ADL Cobas è Rovesciamo il piano reddito, welfare universale e diritti, e si propone diciamo di ragionare sul reddito per quanto riguarda diciamo un campo un po' più ampio di riflessione, un campo all'interno del quale è necessario orientarsi tracciando alcune linee guida e ponendosi le giuste domande con l'obiettivo di portare avanti battaglie e rivendicazioni all'altezza della fase che stiamo attraversando. In particolare quello a cui si fa riferimento anche è provare a sviluppare un discorso comune sulle risorse per provare a dare effettivamente battaglia sui fondi del recovery plan a breve verrà probabilmente riscritto dal nuovo governo Draghi. Ecco, anche in questo caso l'appuntamento è per sabato 20 dalle ore 15. Se avete bisogno di info, le trovate comunque sulla pagina di ADL Cobas Lombardia, ADL Cobas Emilia Romagna e ADL Cobas mi sembra Padova. A questo punto io mi fermo perché ho un'altra hit. In realtà non è necessariamente una hit, perché di colui che stiamo per presentare veramente c'è solo l'imbarazzo della scelta. Parliamo di una persona che il 17 febbraio nasceva nel 53, quindi a breve festeggerà i suoi 68 anni portati così così. Prima di dirvi di chi è e prima di fare questa dedica a il buon Norbi, che in realtà è stato colui che ha selezionato nello specifico la traccia, devo dire che è stato anche un po' complicato perché spesso e volentieri sono tracce che durano un'infinità di tempo e quindi è stata anche diciamo ridotta la scelta, ma comunque no, la dedichiamo a Norbi perché l'ha scelta lui, in realtà, scherzi a parte. Vi do una prima presentazione per evitare di dirvi di chi stiamo parlando. Nel 1970, quindi all'età di 17 anni, esordisce come DJ e speaker di disco music sulla console del 7-Eleven a Montelupo Fiorentino. Nelle stagioni, diciamo flash forward, nella stagione seguente incontra all'Imperiale Club di Tirrenia Francesco Farfa, Robbie J, Sandro Vibò, Ricky Leroy, Alex Neri e Alessandro Tognetti, con i quali inizia una stretta collaborazione che dura tuttora. Una notte del 92 al Tartana di Follonica utilizza voci campionate ed effetti sonori durante la serata, rivoluzionando il modo di fare il cantante fino a quel momento relegato al semplice parlato dal microfono. Da quella sera, quando i DJ si alterneranno la console, questa persona si cala nei panni di cantastorie, creando una particolarissima atmosfera che lo renderà famoso in tutta Italia. Per chiunque sia rimasto, diciamo, negli ultimi 30 anni adeso alla realtà di questo nostro emisfero, saprà oramai di chi sto parlando, ma per chi ancora non lo sapesse, ascoltiamo DJ Franchino. Chissà se c'è qualcuno di voi che sa com'è nata la musica elettronica. Ve la posso raccontare io. C'era una volta circa 12 miliardi di anni fa, quando qualcosa lassù nel cielo si incontrò, ozoto, zolfo, insomma tutte le molecole necessarie per far scoppiare qualcosa. Anzi, lo chiamarono il Big Bang, la grande botta, 12 miliardi di anni fa. Da tutto questo è nato anche Ricky Leroy, Franchino, tutti voi. Pensate un po', se non ci fosse stata la grande botta, dove eravamo noi? A quest'ora cosa avremmo fatto? The Big Bang! la grande botta. Ricky, fagliela sentire la grande botta. C'era una volta la grande botta, tanti tanti anni fa. Ricky Leroy, Franchino, White Party, Al Jais, dove tutte sono un po' scimmiette. Good morning, Monkey. Ricky Leroy, fagli sentire la grande botta. Eccoci qua, insomma, il cambio di atmosfera è stato abbastanza brutale e repentino, ma non potevamo assolutamente non festeggiare Franchino, che comunque è un pezzo di cultura generale veramente massiccio. E sempre, visto che parliamo di cultura generale, magari diciamo un po' a suo modo c'entra, nel senso che quello che vi sottopongo è un piccolo speciale, ed è un piccolo speciale che è dovuto al fatto che questa settimana apparentemente è la settimana dell'antropologia pubblica a Milano. E quindi, come dire, viene proposto finalmente un bel sano festival seminariale da World Anthropology Day, antropologia pubblica a Milano, e in realtà mi sembra di capire che l'Università Bicocca in questo abbia un ruolo veramente importante, come dire. Quindi dal 18 al 20 febbraio l'idea è quella di per l'appunto proporre, cioè quella di mostrare l'importanza e l'utilità del sapere antropologico anche e soprattutto al di fuori delle, come dire, degli scranni accademici, e quindi andare a controllare, diciamo, come questo approccio può potenzialmente rivestire ogni ambito dell'esistente. Questo accade attraverso oltre 40 eventi nel giro di 3 giorni, perché stiamo parlando di un micro festival dal 18 al 20 febbraio, quindi oltre 40 eventi che offriranno l'occasione per familiarizzare con il lavoro che gli antropologi e le antropologhe svolgono insieme ad operatori sociali, associazioni, professionisti, istituzioni negli ambiti più disparati, perché ciascuno possa trarne vantaggio. Ora, le informazioni per quanto riguarda appunto World Anthropology Day 2021, Antropologia Pubblica a Milano, questo è il titolo dell'evento, lo potete trovare sia all'evento appena citato, sia alla pagina Facebook World Anthropology Day, ma anche alla pagina diciamo online del sito di Unimib, in particolare del Dipartimento di Scienze della Formazione, quindi Antro Day Milano. www.formazione.unimib.it del sito del, per l'appunto dell'Università di Milano. All'interno di questo di questa tre giorni di seminari e presentazioni, noi ci permettiamo di sottoporvene due in particolare. Il primo si chiama Abitare senza padroni, resistenza e auto-organizzazione contro la gerarchia statale, ed è con nostra somma gioia e gaudio organizzato da, un antropologo e docente presso la NABA di Milano, che noi conosciamo bene e che anche altrettanto lui conosce noi. Stiamo parlando di Andrea Staid, che insieme ad alcune attiviste delle brigate volontarie per l'emergenza discuterà di come in molte, se non in tutte le città italiane, si è prodotta una grande campagna di mutuo appoggio e di solidarietà in un difficile periodo come quello pandemico. Attraverso le voci delle protagoniste si analizzerà come si è creata una reale forma di liberazione sociale e di creazione di welfare autogestito, quindi non solo un gesto contro, ma anche un gesto produttivo e di carattere comunitario solidale. Trovate questo incontro, che sicuramente sarà molto interessante, sicuramente, perché verosimilmente, se di solito Staid dice delle cose molto intelligenti e riesce a dirle anche quando ha a che fare con noi che siamo dei ciambracconi, figuriamoci quando è invece in un ambito, diciamo, di persone intelligenti. Lo trovate sabato 20 febbraio dalle ore 18:30 alle ore 19:30 in diretta Facebook, direttamente sulla sua pagina, quindi andatevi a cercare Andrea Staid. Sempre all'interno dello stesso dello stesso festival di antropologia, troviamo Antropologia dell'aborto, complessità e sfide di una ricerca impegnata. L'incontro questa volta invece è il giorno prima, quindi è venerdì 19 febbraio dalle 15 alle 17:30, ed è un incontro organizzato dalla Unione Femminile, un incontro in cui a moderare, diciamo, c'è una nostra mia, ma anche nostra di To Do List, una nostra amicizia, nel senso che sarà Eleonora a moderare il dibattito che animerà l'ultima parte di questo incontro. L'idea è quella, per l'appunto, di una ricerca impegnata socio-antropologica, storica e giuridica, quindi anche, come dire, trasversale sul campo dell'aborto. Questo incontro ha infatti l'obiettivo di riflettere, a partire dalle esperienze multidisciplinari, personali e professionali di ricercatrici e attiviste italiane, sulle criticità e vulnerabilità di questa doppia appartenenza e della ricerca legata all'attivismo su questioni etiche, sui dilemmi e sui piaceri di lavorare nell'ambito della giustizia riproduttiva e in particolare sul tema dell'aborto. Ad intervenire sono numerosissime, ne cito solo alcune. Una è Claudia Mattalucci, associato all'interno della antropologa e professoressa associata all'interno del Dipartimento di Scienze della Formazione della Unimib, quindi della Bicocca di Milano. Oltre a lei, Silvia De Zordo, Anastasia Martino e Alessandra Brigo, solo per citare la parte antropologica, perché poi, come dicevamo, per l'appunto l'idea è quella di un incontro trasversale su cui quindi intervengano diverse esperte in diversi ambiti, e quindi cercando di sviluppare tutte le varie configurazioni che questa ricerca può avere. Chiudo, diciamo, questi sono gli incontri, ma in realtà, come dicevo, ce ne sono oltre 40 nel giro di tre giorni, quindi l'invito è veramente quello di andare sulla pagina di World Anthropology Day e andarvi a recuperare l'intera manifesto della tre giorni. Chiudo con una proposta invece museale, visto che, per l'appunto, sempre Eleonora, due settimane fa, quando era qui, ci riportava all'esperienza del MUDEC, Museo delle Culture di Milano. Visto che, insomma, i musei sono in riapertura, forse, se se ce lo lasciano fare. Una delle proposte che, come dire, ha sicuramente a che fare anche con la storia e l'antropologia è quella di appunto della mostra presentata al MUDEC dal 9 febbraio fino al 25 aprile, quindi avete tempo, andatevi a sbirciare quali sono gli orari e quali sono le come dire, le regole di accesso al MUDEC in questo momento, che immagino come tutti gli altri musei saranno in perenne aggiornamento in base alle decisioni dei vari decreti. La presenza, cioè diciamo la mostra di cui stiamo parlando è, io qua dirò un nome a caso, tanto nessuno saprà come si pronuncia, Quapak Nyan, forse, la grande strada Inca, è una, diciamo, è una, il Quapak Nyan o strada reale degli Inca, che da qualche anno a questa parte è un patrimonio dell'umanità protetto dall'UNESCO. È una strada che va dall'Ecuador fino all'Argentina di oltre 30.000 chilometri e che è, come dire, la più grande impresa ingegneristica del continente americano del periodo preconquista. Accompagnati da una, immagino virtualmente, da una carovana di lama, i visitatori della mostra conosceranno sia il lato ingegneristico della grande strada sia il suo significato sociale e simbolico. Neanche in questo caso, per chiunque volesse, la proposta è appunto quella del MUDEC, ecco, per l'appunto. A questo punto noi ci fermiamo per un'altra pausa musicale, anche in questo caso l'autore è ben noto, stiamo parlando di un autore che esordisce con il primo singolo il 22 giugno del 2001 e compierà fra qualche giorno i suoi primi 41 anni. Stiamo parlando di Tiziano Ferro e l'angolo della, come dire, l'angolo del karaoke di oggi è attraverso il suo terzo estratto dal secondo album in studio, quindi è una pubblicazione del 2004, e stiamo parlando nello specifico di Non me lo so spiegare, quindi noi adesso ci ascoltiamo quello. Lei? E quell'orologio non mi fa, non mi fa, stava sempre fermo, darmi una fine. Io me la ricordo diversa. Non si capisce cosa dice. Come te, lui si finava. Si finava? Si finnava? Si finava. Cosa vuol io dire? Non piango, no, mai non c'è nessuno, lì Tiziano. Qualcuno l'ha perso. Tiziano. Scusate, non ho resistito. In realtà, ovviamente, questa non era la versione originale, era la versione di Gigi Ross della loro geniale. Come dire, geniale remake, parodia di Tiziano Ferro. Adesso ci ascoltiamo quella vera, giuro. Per tutti coloro che hanno la fianda sdena, questa è effettivamente Non me lo so spiegare. Un po' mi manca l'aria che tirava, o semplicemente la tua bianca schiena. Na na na na. E quell'orologio non girava, stava fermo sempre da mattina a sera. Come me lui ti fissava. Io non piango mai per te, non farò niente di simile, no, mai. No, no, no, no, no, no, no, no, sì, lo ammetto un po', ti penso, ma mi scanso, non mi tocchi più. Solo che pensavo quanto è inutile far neticare, credere di stare bene quando è inverno e te togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande. Mi ricordi che rivivo in tante cose. Na na na na na na. Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente, perlomeno a te ti permetto di sognare. E se hai voglia di lasciarti camminare, scusa sai non ti vorrei mai disturbare, ma vuoi dirmi come questo può finire? Non me lo so spiegare io. Non me lo so spiegare. La notte fonda e la luna piena ci offrivano da dono solo l'atmosfera. Ma l'amavo e l'amo ancora, ogni dettaglio è aria che mi manca. E se sto così sarà la primavera, ma non regge più la scusa, no, no. Solo che pensavo quanto è inutile farneticare, credere di stare bene quando è inverno e te togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande, mi ricordi che rivivo in tante cose. Na na na na na na, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente perlomeno a te ti permetto di sognare. Solo che pensavo quanto è inutile farneticare, credere di stare bene quando è inverno e te togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande, mi ricordi che rivivo in tante cose. Ah, na na na na na, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente perlomeno a te ti permetto di sognare. E se voglia di lasciarti camminare, scusa sai non ti vorrei mai disturbare, ma vuoi dirmi come questo può finire? Ma vuoi dirmi come questo può finire? Sì, ma vuoi dirmi come questo può finire? E speriamo che per tutti voi questa sia stata effettivamente un momento karaoke. A brevissimo partiamo con il prossimo pezzo, ne approfittiamo però per che in realtà è già partita in sottofondo, ma dopo lo rimettiamo per bene, perché quello che ci aspetta è in realtà un'altra mini pillola di to-do list, nel senso che lo facciamo troppo raramente, ma dovremmo farlo. Il palinsesto di Radio ZM di questa settimana ha una serie di proposte ottime e quindi noi ci teniamo a farvele presente tutte. Il primo è domani stesso, perché domani stesso inizia in realtà una serie di incontri che abbiamo messo insieme, diciamo, con tanti e tante, in particolare collettivo ZAM, studenti, Rete Studenti Milano e Radio ZM. Per l'appunto l'idea è quella di un percorso che parta da domani, quindi martedì 16 febbraio, e arrivi fino al 16 marzo del 2021, data appunto anniversario, 18° anniversario dalla morte di Dax per mano dei fascisti. L'idea è quella di, diciamo, il contenitore si chiama Nuove idee per nuovi significati per l'antifascismo, ha diciamo l'idea di costruire 8 appuntamenti radiofonici e 8 momenti di approfondimento e discussione sui nuovi significati che per noi ha la pratica antifascista quotidiana nei nostri territori, nelle scuole e nelle società. Per l'appunto 2 di questi incontri, di questi 8 incontri, saranno questa settimana. Il primo è martedì 16, in cui parleremo di dispositivi tecnologici di controllo, e il secondo sarà giovedì 18, alla mia presenza e per fortuna anche di persone che hanno ben più cose da dire di me, e ha a che vedere con l'ecologia e la tutela del territorio. A seguire venerdì 19, quindi questo venerdì torna la Circuit Gang Live con la, il suo cortocircuito che ci aveva abbandonato da qualche settimana, ma a breve ritornerà. Sabato 20 forse siamo in attesa di una conferma, invece coloro che non hanno, che non si sono fermati un attimo, Underground Pushers, ci presenteranno la prossima puntata, forse su Schoolboy Q, ma non siamo sicuri se ci sarà effettivamente. Comunque rimanete tunnati, come si dice in questi casi. Un'altra conferma invece di un altro programma che non si ferma neanche un secondo è Le Ribelli, che domenica 21 ci propongono un signor libro, una signora presentazione, sperando che da questo poi parta, se ho ben capito, un dibattito, comunque una discussione anche con gli ascoltatori, che è appunto il libro Imparare a trasgredire di Bell Hooks. A questo punto noi sentiamo effettivamente ciò che in sottofondo ha già iniziato a suonare, e c'è un altro singolo, diciamo, di successo, un altro, in questo caso, ecco, invece in questo caso è proprio un debutto. Stiamo parlando di un'attrice, cantante, imprenditrice, diplomatica delle Barbados. Lei è abbastanza immensa, è Rihanna, evidentemente, che il 20 febbraio dell'88 aveva i suoi natali. Debutta per l'appunto nel 2005, quindi a 17 anni, con l'album Music of the Sun, e il singolo in particolare che la lancia è questo Pon the Replay. One time, run it back once more. Come, run, run, run, run. Everybody move, run. Let me see you move, run. Rock it to the groove, done. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run, run. If you ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah, yeah. Well, I'm ready for it. Come, let me show you. You want to groove? I'ma show you how to move. Come, come, come. Mr. DJ, some fun you replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? All the girls want to dance for wanting some more. Won't you turn the music up? Come, Mr. DJ, some fun you replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? All the girls want to dance for wanting some more. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Hey, mister, please, Mr. DJ, tell me if you hear me. Turn the music up. Hey, mister, hey, mister, please, Mr. DJ, tell me if you hear me. Turn the music up. It goes one by one, even two by two. Everybody in the club want me rocking when I'm through. Let the bass from the speakers run through your sneakers. Move both your feet and run to the beat. Come, run, run, run, run. Everybody move, run. Let me see you move, run. Rock it to the groove, done. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club give me a run, run. If you ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah, yeah. Well, I'm ready for it. Come, let me show you. You want to groove, I'ma show you how to move. E niente, torniamo qui con questa atmosfera club che ha acceso gli animi, mentre sono le 20.01, quindi oramai ci lanciamo effettivamente verso la fine di questa puntata. E non possiamo che lasciarci, come nostro solito, con gli eventi dal vivo, che finalmente iniziano ad essere un numero veramente massiccio, sono tuttavia un po' in difficoltà, perché nonostante siano in numero abbastanza massiccio sono quasi tutti lo stesso giorno, quindi ci vorrà una sana dose di ubiquità e o una buona resistenza al freddo, perché le iniziative che vi proporremo insomma vanno in particolare appunto quelle del sabato 20 febbraio durante il corso di tutta la giornata. Iniziamo però con quei tre eventi che ce l'hanno fatta a non essere tutti lo stesso giorno. Il primo che proponiamo è previsto per la data di giovedì 18 febbraio 2021. Stiamo parlando di organizzarsi contro la turbo urbanistica. La proposta arriva dal FOA Boccaccio 003 di Monza, come ben sapete. L'idea è quella di uno scambio di idee per la costruzione di una nuova fase di mobilitazione contro il disegno di città della Giunta Allevi per una Monza ecologica e inclusiva, liberata dalle ossessioni di profitto. È effettivamente la solita, ed è il caso di Monza, ma è il caso evidentemente di un sacco di amministrazioni e del governo stesso. Diciamo l'approvazione dei provvedimenti sulla rigenerazione urbana cosiddetta, in questo caso appunto in consiglio comunale monzese, ci spinge a continuare, ci dicono i compagni del Boccaccio, la mobilitazione, aprendo una nuova fase di conflitto che, sfidando la rassegnazione, si trasformi in sperimentazione concreta di un nuovo disegno in città, di un nuovo disegno di città, scusate, in cui giustizia sociale e climatica superino il modello basato su profitto e cemento di una città a misura di ricco. Quindi, per chiunque volesse, la data è quella del giovedì 18 di febbraio e l'orario sono le 18:30 al FOA Boccaccio, che per l'appunto si trova in via Rosmini 11 a Monza. Il secondo evento ci riguarda da vicino, nel senso che non solo diciamo per vicinanza e solidarietà, ma proprio perché presenti anche noi all'interno dell'evento di cui stiamo parlando, perché per l'appunto il 10 dicembre del 2017, quindi stiamo parlando ormai di quasi di 3 anni e mezzo fa, Forza Nuova organizza un banchetto di raccolta firme per l'assegnazione delle case popolari ai soli italiani in via Spaventa. Gli antifascisti della zona, fra cui c'eravamo anche noi, insieme ai compagni di GTA, ai compagni dell'AMPI, eccetera, eccetera, organizzano un contropresidio allo scopo di denunciare e impedire queste prove di fascismo e, un simpatico simpatizzante di Forza Nuova insulta e aggredisce una ragazza del presidio antifascista, da cui nasce un breve scontro tra i gruppi. La polizia in seguito, oltre ad avere fatto un cordone ovviamente intorno al banchetto di Forza Nuova, guarda caso, decide di provvedere per vie legali e in particolare accusa e rinvia a giudizio due membri di GTA, spazio che si trova appunto, spazio autogestito e occupato, che si trova nella Milano Sud, che resiste nella Milano Sud popolare, in quel di Gratosoglio, e in particolare appunto due membri di GTA, Tia e Ale, vengono rinviati a giudizio. Questo avveniva in particolare con la prima udienza un paio di settimane fa, il 27 gennaio di 2020, e questo venerdì, e qui veniamo appunto al nostro presidio, questo venerdì ci sarà la seconda udienza. Le valutazioni insomma sono tante, non abbiamo qui tempo di farle tutte, c'è un ottimo comunicato dei compagni di GTA a corollario dell'evento Facebook di cui stiamo parlando, che si intitola Presidio di solidarietà agli antifascisti sotto processo. Non entriamo nei troppi dettagli, ma al di là di quanto evidentemente ci sia un'impunità, guarda caso, sempre delle destre, e invece per chi non vuol chinare la testa ci siano sempre denunce e simpatici atti repressivi, talmente lampante è questa cosa che dei due denunciati uno non ha partecipato agli scontri e l'altro non c'era neanche, quindi insomma che la polizia simpaticamente decida di procedere non ci stupisce, però è veramente allucinante. Per cui, per chiunque volesse dare solidarietà ai compagni e le compagne giustamente colpiti dalla repressione, il presidio davanti al tribunale in corso di Porta Vittoria a Milano è venerdì 19 febbraio alle ore 11:30. Veniamo adesso ad un altro incontro propostoci dalla dalla nostra brillante redazione, in particolare dalla Miki. È Friday for Immigrants, non possiamo più aspettare. Venerdì 19, sempre però questa volta alle 18:30, in piazza San Babila avrà luogo un presidio con musica e canzoni. Diciamo che l'idea è quella di anzi di fare, diciamo, di seguire un incontro che invece prevede la presenza di una delegazione dal prefetto alle ore 17 per verificare la situazione delle pratiche di regolarizzazione della sanatoria 2020 e per consegnare una lettera speciale che poi verrà portata anche in piazza. La situazione è drammatica, nel senso che al momento a Milano sono state presentate 26.000 e passa richieste, il maggior numero di persone su tutto il territorio italiano, 26.000 praticamente, 25.989 lavoratori e lavoratrici immigrate attendono ancora la convocazione in prefettura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e nessuno di loro evidentemente ha accesso alle misure di sostegno previste dal governo per rispondere ai bisogni elementari come casa e cibo. Secondo le domande processate finora ci vorrebbero 25 anni per rispondere a tutti, quindi noi non possiamo che aggiungerci alla richiesta di una sanatoria in via definitiva che permetta a tutti e tutte di vivere con la dignità che è il minimo veramente sindacale. E per cui, per chi volesse partecipare, l'incontro, il presidio musicale e colorato è venerdì 19 alle ore 18:30 in piazza San Babila. A questo punto noi proseguiamo con la musica e ci andiamo verso la fine, per l'appunto. Un altro must, delle nostre adolescenze, quantomeno della mia sicuramente, è un cantautore chitarrista statunitense che appunto il 20 di febbraio avrebbe compiuto 54 anni, ma che ai noi l'8 aprile del 94 viene trovato morto nella sua casa di Seattle, ucciso da un colpo di fucile. Stiamo parlando evidentemente del frontman del gruppo musicale grunge Nirvana, nel senso che arriva a giorni il compleanno di Kurt Cobain, e noi ascoltiamo About a Girl. questa era l'inconfondibile, direi, About a Girl, About a Girl registrata per Bleach nel 1988, ed è, tra l'altro, pare che sia un brano che Kurt Cobain ha inciso e ha creato dopo un intero pomeriggio passato ad ascoltare Meet the Beatles, quindi diciamo un album non precisamente punk né tantomeno grunge, cosa che diciamo categoria che avrebbero fondamentalmente inventato i tre dei Nirvana, in particolare Kurt Cobain. Proseguiamo a questo punto direttissimi, perché il tempo sta iniziando a stringere evidentemente, e quindi proseguiamo con le ultime due tranche di eventi. Stiamo parlando, e qui lo dico per la prima volta e lo proseguirò a dire, di eventi che hanno tutti che sono tutti in calendario sabato 20 febbraio. E ai noi, ma insomma cercheremo di fare in modo di seguirli tutti. Il primo è un volume 2, un volume 2 nuovamente di una della Cultural Mass, la Critical Mass della cultura e dello spettacolo. Critical Mass che aveva già, penso un mesetto fa più o meno, intessuto le strade della città di richieste, di domande e di voglia di cultura e di fare cultura, di vivere la cultura e anche di vivere di cultura, nel senso che stiamo parlando di un ambito che è ormai fermo da praticamente 12 mesi, quello del mondo culturale. Quindi contro la precarizzazione, disoccupazione e lavoro nero, per una ripartenza diffusa del settore che garantisca diritti e dignità, per un reddito di continuità a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, oltre che per un protocollo sanitario nazionale dei luoghi della cultura e dello spettacolo, quindi insomma per una riforma radicale dell'intero settore. Si scende si inforcano le proprie biciclette e o qualsiasi altro oggetto con le ruote di cui siate disposti. La partenza sarà davanti alla Triennale come nel primo caso. In realtà per quanto riguarda l'orario non si hanno ancora delle notizie, quindi per le info in aggiornamento, per l'appunto, andate a recuperare la pagina di Coordinamento Spettacolo Lombardia. Il prossimo evento che vi proponiamo è ancora una volta un evento in solidarietà per diciamo una subita repressione. Questa volta a farne le spese sono gli altri membri della zona sud che resiste, nonché amici, fratelli, sorelle, compari e eccetera eccetera. Stiamo parlando del Comitato Autonomo Abitanti Barona, perché il 25 giugno del 2009 del 2019 evidentemente è arrivata una condanna in primo grado a 7 compagni per avere partecipato ad un picchetto durante lo sgombero di una casa occupata in via Famagosta. Sin dal principio però questo processo è stato guastato da un vizio procedurale, per cui la cancelleria del tribunale non ha mai inviato gli atti corretti né al difensore né agli imputati, impedendo così la possibilità di difendersi in dibattimento o di raccogliere materiale utile. La condanna effettivamente è stata altissima, stiamo parlando di quasi 10 anni complessivamente, tra gli 11 mesi e i 3 anni a testa, senza attenuanti generiche né sospensione condizionale. Anche in questo caso è uno scandalo è dire poco. Comunque insomma le parole non sono sufficienti, bisogna proseguire con bisogna fare sentire la propria solidarietà effettivamente, e potete farlo attraverso una cena benefit che avrà luogo distanziati e con tutta l'attenzione del caso sabato 20 dalle ore 19 per l'appunto allo spazio di via Faenza della Baronata. Ciao, è arrivata Svezia. Ciao. Di qualche cosa Svezia, vieni qua. Vieni. Buonasera a tutte e tutti. Yeah! Sono molto contenta che è arrivata Sveva, anche se per smontare delle cose e non per farmi compagnia, ma comunque l'abbiamo già. Ogni tanto dico anche l'ora, così. E dico sempre che non lo so dire bene come te, quindi vai, fai così. Benissimo. Allora, oggi è il, non me lo ricordo, oggi è il 15 febbraio 2021. Perfetto. E sono le 20:18 e siamo in onda. Yeah! Così si fa, raga. C'è chi tenta di come dire, di mimarla, di provare a fare così, ma nessuno è altrettanto sul pezzo. Qua si sta venendo giù un pezzo di studio. Comunque, per l'appunto, per chiunque volesse essere solidale e mostrare la sua solidarietà al Comitato Autonomo Abitanti Baroni, Barona, per l'appunto ci sarà una cena benefit che in realtà seguirà una festa di carnevale con la brigata che fra tutti è la più bella. Stiamo parlando della brigata Brighella. In realtà altrettanto ne parleremo anche settimana prossima. Il 26 ci sarà un presidio sotto il tribunale per il procedimento di cui stiamo parlando, e altrettanto per chiunque non se la sentisse di partecipare alla cena benefit, non c'è problema, non ci sono scuse. Sulla pagina del Comitato Autonomo Abitanti Barona e sulla evento ci sono le coordinate anche per bonifici e post pay, così potete sostenerli in ogni modo possibile e immaginabile. Sempre il 20 febbraio, perché tanto siamo sempre lì, abbiamo un evento che si chiama Ad un anno dal paziente 1 per una sanità pubblica, preventiva, sociale, universale e partecipata. Questo perché? Perché il 20 febbraio ricorre ormai un anno dal paziente 1, sembra passato 120 anni, però siamo ormai agli scandalosi 12 mesi di inettitudine delle istituzioni. Quello che succede il 20 febbraio è in realtà un sacco di cose, nel senso che l'idea è che quello del 20 febbraio sia un momento di risveglio e dell'avviamento di vertenze territoriali per un nuovo modello di sanità pubbliche. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che si terranno iniziative locali e via web per ricordare ciò che questa pandemia ha reso in una qualche maniera evidente, riducendo la salute a merce e focalizzandosi esclusivamente ai risultati di bilancio economico. Il caso nostro appunto è quello della Lombardia, con la speranza che si arrivi, cioè con la speranza fondata, nel senso che evidentemente la speranza è quella che un movimento richieda finalmente l'epilogo del modello che ha portato alla distruzione della sanità pubblica, già a partire dalle giunte Formigoni, poi con la riforma Maroni del 2015 e infine con la giunta Fontana. Insomma, ognuno di questi ha messo poi in mano qualche cosa per deviare dai principi della riforma sanitaria del 78. Stiamo parlando di evidentemente un sistema sanitario che è diventato un sistema ospedalocentrico, quindi la medicina territoriale è stata messa in terzo, quarto, quinto piano. C'è un'estesa privatizzazione e un definanziamento di strutture pubbliche che come dire fa il resto della compone il resto. E a questo punto c'è Norbello, siamo tutti qua. Ciao, quella è mia però. Sta portandomi via il computer perché pensa che sia quello di Gulli, che però è andato a riportare via già tua sorella. Pensa a te, fantastico. Così è tutto lì per il sociale. Tra l'altro Norbi non si sarà neanche accorto che gli abbiamo già dedicato una canzone, dopo glielo diciamo perché non ci ha ascoltato come un babbo di minchia. Vabbè, comunque dicevamo per l'appunto che a mettere diciamo in crisi il sistema di sanitario lombardo sono state gli ultimi 30 anni probabilmente, in se non 35, di distruzione, tagli indiscriminati. Al momento, per quanto riguarda il coordinamento lombardo, sono previste iniziative a, per darvi un'idea, Como, Bergamo, Varese, Saronno, Monza, Desio, Brescia, Pavia, Cremona, Sondrio, Lodi, Cinisello e Viareggio. A questo, se non erro, si aggiungono anche un si aggiunge anche un evento della Brigata Visone a Rho, che si chiama Non sta andando tutto bene. L'iniziativa per quanto riguarda diciamo il percorso in presenza, almeno per Milano, è previsto per la mattinata del 20 febbraio sotto alla regione, per andare a fargli presente che cosa evidentemente non ha funzionato e sta continuando a non funzionare. A questo punto un altro, diciamo il penultimo dei brani che mettiamo quest'oggi è di un forse del più importante, anzi senza forse, uno dei più importanti e influenti cantautori italiani, scomparso nel 99. Stiamo parlando del Faber, anche noto come Fabrizio De André, che nasceva il 18 febbraio del 1940 e che quindi ci lasciava qui, diciamo, non ancora compiuti i 60 anni. Era difficile scegliere, come dire, il brano, perché sono, anche scegliendo i più famosi, sono veramente un numero allucinante, e quindi per una volta scegliamo un brano che c'entra con ciò che abbiamo appena detto. Mi sembrava giusto farlo. È un medico, fa parte di Non al denaro né non all'amore né al cielo, un concept album del 71 che riunisce un po', diciamo che viene ispirato da alcune poesie tratte dall'antologia di Spoon River di Masters. In particolare un medico racconta la storia, appunto, di un giovane spinto da una genuina passione per la medicina e per la professione medica, che però dapprima si offre di curare gratuitamente la povera gente, ma che poi diciamo a un certo punto soccombe alla logica dominante, che è quella di una medicina fatta per chi ha i soldi e quindi non per chi ha bisogno, ma per chi se la può permettere, ecco, diciamo. E in virtù di questo, appunto, i parallelismi sono abbastanza semplici, e quindi noi ci ascoltiamo e poi torniamo per l'ultimo per l'ultima clip, Un medico di Fabrizio De André. Da bambino volevo guarire i ciliegi, quando rossi di frutti li credevo feriti, la salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno fu un sogno, ma non durò poco, per questo giurai che avrei fatto il dottore, e non per un dio, ma nemmeno per gioco, perché i ciliegi tornassero in fiore, perché i ciliegi tornassero in fiore. E quando dottore lo fui finalmente, non volli tradire il bambino per l'uomo, e vennero in tanti e si chiamavano gente, ciliegi malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti, con la diagnosi in faccia e per tutti era uguale, ammalato di fame, incapace a pagare. E allora capii, fui costretto a capire, che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente, se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve, l'etichetta diceva elisir di giovinezza. E un giudice con la faccia da uomo, mi spedì a sfogliare i tramonti in prigione, inutile al mondo e dalle mie dita, bollato per sempre, truffatore imbroglione, dottor professor truffatore imbroglione. Ed ecco, questa era la splendida Un medico di Fabrizio D'André. A questo punto siamo veramente alla fine. Gli ultimi tre eventi che vi proponiamo hanno luogo più o meno sempre, dico più o meno perché l'ultimo è su due giorni, ma luogo il 20 febbraio. Il primo mi sento di sponsorizzarlo anche perché diciamo con il gruppo di in particolar modo, ecco, diciamo, mi sento di sponsorizzare tutti, ma in particolar modo sento di sponsorizzare questo primo perché riguarda il mondo dell'hip hop e della repressione. Ancora una volta stiamo parlando dell'evento Libertà per Pablo Hassel. Pablo Hassel è il primo rapper in Europa ad essere incarcerato per il contenuto di alcune sue canzoni. Stiamo parlando di canzoni che utilizzano peraltro diciamo delle fonti accreditate, quindi al di là della come dire, della censura e della vergogna che questa tuttora rappresenta, stiamo anche parlando di come dire, canzoni che raccontano in maniera certificata la natura grottesca della famiglia, fra le altre, della famiglia regale spagnola e in generale di questo sistema oppressivo. Quello che ci dice appunto l'evento è che ancora una volta viene utilizzato il potere giudiziario per censurare ed incarcerare un artista che critica lo status quo, che denuncia le ingiustizie sociali, che prende una posizione contro gli abusi di potere. Questo è il risultato della condanna per i delitti di apologia di terrorismo, ingiurie alla corona e alle istituzioni dello Stato da parte dell'Audiencia Nacional. Sapete, per chi non lo sapesse, la Spagna ha un tribunale civile affiancato ad un tribunale politico che, come immaginerete, affonda le sue radici come dire in memoria franchista, quindi non dico niente su quello che penso di un tribunale politico nel 2021, ma è veramente scandaloso, tanto più che per ingiuria alla corona Pablo Hassel, che è un rapper anche abbastanza giovane, rischia una cifra folle di anni di carcere senza la possibilità di appellarsi, e per altre strutture che sappiamo essere molto rigide, insomma il sistema carcerario spagnolo in particolare per quanto riguarda i carcerati politici è stato più volte, diciamo, attenzionato dalla stessa Amnesty, ma da tantissimi anche per la gestione dei prigionieri politici baschi, evidentemente. Detto questo, appunto, per chi volesse, sabato 20 alle ore 16 in Piazza Duomo è importante la presenza. Per chiunque non riuscisse, non volesse, non avesse modo di farlo, sull'evento di Facebook di questo presidio sono segnalati tutta una serie di altre modalità per portare la propria solidarietà a Pablo Hassel, e insomma anche solo andare a leggervi un po' la storia sono sicura che un pezzettino faccia, quindi insomma tutti e tutte sono invitate a farlo. Sempre il 20 febbraio, in questo caso non ho tantissime informazioni, devo essere onesta, sempre in Piazza del Duomo, quindi siete già lì tendenzialmente alle ore 15 o forse alle 16, non si capisce bene perché la grafica e la descrizione dicono due cose diverse. C'è un presidio organizzato dalla USB contro la violenza repressiva sui manifestanti e il ritiro dei pacchetti di legge al grido di, appunto, io sto con i lavoratori indiani. La giornata di solidarietà, la richiesta è basta violenze, per l'appunto. Sarà presente fra gli altri anche Monio Vadia. Infine, e con questo veramente chiudiamo l'episodio di oggi, e poi ci sarà a salutarci la solita traccia musicale che chiude poi l'appuntamento e in questo caso dobbiamo ringraziare per l'ennesima volta la buona Cecilia l'evento chiamato Yekatit 12, la strage di Addis Abeba. Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, la strage di Addis Abeba fu un insieme di episodi di indiscriminata e brutale rappresaglia compiuti tra il 19 e il 21 febbraio del 37, il 19 nel calendario 19 febbraio per l'appunto nel calendario etiope corrisponde al giorno Yekatit 12, da cui il nome dell'evento nella capitale per l'appunto rappresaglia compiuti tra il 19 e il 21 febbraio nella capitale dell'Etiopia da parte dei civili italiani, militari del Regio Esercito e squadracce fasciste contro i civili etiopici, mietendo un numero che va tra le 3.000 e le 6.000 vittime, posto che in un recente testo di Campbell, applicando diverse metodologie di stima, portano congiuntamente all'ipotesi di una cifra di oltre 19.000 vittime, includendo in tal numero anche le uccisioni dell'elite etiope avvenuta nelle settimane seguenti. Quindi, come al solito, italiani, brava gente, è evidentemente fondamentale fare ridiscutere la propria storia, soprattutto quando la propria storia è una storia di strage nei confronti di popolazioni totalmente indifese. L'idea questa volta è appunto organizzare una conferenza online in occasione del ricordo di questa strage fascista per venerdì 19, a cui parteciperanno la professoressa Giovanna Delle Donne, che si occuperà più della parte storica, e la professoressa Angelica Pesarini, scusatemi, che attualizzerà le tematiche coloniali. Il giorno successivo, quindi nuovamente il 20, e qui è il motivo per cui questo incontro si trova all'interno della sezione, diciamo, eventi dal vivo, ci sono non uno ma ben tre iniziative che prenderanno forma in maniere diverse appunto nei tre quartieri di Via Padova, Quartoggiaro e Gratosoglio. Nello specifico appunto quella di Gratosoglio è curata dalla Ampi Stadera Gratosoglio Milano nell'ambito dell'iniziativa a lato dell'iniziativa della Brigata di Solidarietà Popolare Milano Sud, che in quel giorno appunto si occuperà, come spesso succede, della distribuzione di cibo e di pacchi all'interno del quartiere Gratosoglio. In questo caso appunto le coordinate sono due per quanto riguarda la conferenza online. L'appuntamento è per venerdì 19 alle ore 21 sulla pagina di Ampi Stadera Gratosoglio Milano, e il giorno dopo dalle 15 appunto nei quartieri di Via Padova, Quartoggiaro e Gratosoglio. Le informazioni sono in via di aggiornamento, quindi insomma cacciateci un occhio. A finire la puntata di oggi, e oramai abbiamo sforato come al solito ed è stata lunghissima, perché io più tempo ho più mi disperdo, è una grandissima, una cantante, una pianista, una scrittrice, un'attivista per i diritti civili statunitense, afroamericana. Stiamo parlando di Nina Simone, e in particolare che appunto nasce il 21 febbraio del 1933. A salutarci e a salutarvi c'è una traccia uscita su un vinile in due parti nel 1969, ed è la bellissima, splendida Revolution. E con questo ci salutiamo, ci vediamo settimana prossima. Now we got a revolution, 'cause I see the face of things to come. Tell you about the destruction of all the evil that will have to end. It will, oh yes, it will. Don't you look at me. All right. It will end. All right. Well, all right. only way that we can stand in fact is when you get your foot off our back. Get off my back.